Cioè, la ragione principale è che nel 2019, a seguito di un altro sciopero della fame portato avanti da un attivista che si chiama Filippo Guerrini, il Comune, Comune di Bologna, ha dichiarato l'emergenza climatica ed ecologica, una mozione votata a larga maggioranza, in cui erano scritti degli impegni che dovevano seguire a questa dichiarazione concreti per la riduzione dei gas serra, della CO2 in particolare. E questi impegni sono stati mantenuti, in pratica di azioni concrete sono state fatte ben poche, per cui abbiamo pensato di riprovare, insomma, di non abbandonare la lotta che avevamo cominciato, di continuare la pressione affinché l'amministrazione prenda dei provvedimenti seri, perché la situazione nel frattempo ambientale si è aggravata, quindi non siamo per niente fuori. Tra gli impegni c'era anche, se non sbaglio, un'assemblea cittadina che doveva svolgersi. Sì, l'istituzione di un'assemblea cittadina è una delle richieste a livello globale di Extinction Rebellion, che è uno strumento di partecipazione molto, molto importante e anche innovativo, che permette ai cittadini di poter, con una dovuta preparazione, diciamo, con l'ausilio di esperti, un campione di cittadini scelti in modo rappresentativo della popolazione, possono discutere, affrontare delle tematiche importanti come quella ambientale, poter fare delle proposte che poi diventino vincolanti per l'amministrazione. Per richiamare il Comune di Bologna ai propri impegni, darei vita a uno sciopero della fame, come si svolgerà? In pratica starò in piazza Renzo 4 ore al giorno, dalle 16 alle 20 da oggi fino a che finirà lo sciopero. Questo darà modo anche a chi vuole venire, conoscere XR o le nostre proposte, le nostre richieste, di poter passare, perché saremo lì, diciamo, non solo io, tutto il gruppo che supporta questa azione. Quindi, insomma, tu hai intenzione di andare avanti finché non ci saranno risposte? Sì, l'obiettivo è che il Comune prenda dei impegni precisi, concreti. Dicevi, non è la prima volta che la vostra associazione dà vita a iniziative di questo tipo. Sì, l'anno scorso il movimento ha svolto un'azione identica praticamente in questo periodo, alla fine di agosto, per una settimana. C'è la sensazione che la pandemia abbia un po' distolto l'attenzione da quello che invece è il tema del cambiamento climatico, che aveva avuto perlomeno i riflettori molto accesi l'anno precedente, insomma, anche con Greta Thunberg e tutto il movimento di Friday for Futures. Come dire, le istituzioni sembrano più disattente a questi temi adesso. È solo una sensazione. Sì, è anche la mia sensazione. Quello che però percepisco tra le persone, non solo gli attivisti e le attiviste, che c'è il desiderio di poter continuare con uno stile di vita, con delle misure che abbiamo sperimentato durante il lockdown, che ci hanno fatto capire che questo sistema di vita non è quello che desideriamo. Diciamo che c'è bisogno di un cambiamento radicale che non è legato solo alla necessità della lotta climatica, ma anche proprio a un cambio di paradigma dell'economia, della produzione, del lavoro, insomma, in tutti i settori.